Mi sembra che si tratti dell'ultimo passaggio di questo iter orribile della distruzione progressiva del diritto di asilo nell'Unione Europea, in particolare in Italia, che in un certo senso può completare questa sorta di iperattività del governo in materia di diritto dell'immigrazione. Questa dovrebbe essere la decima riforma normativa che quest'anno vede la luce. Al momento è un accordo rivendicato, ma di cui non si conoscono ancora i dettagli perché non esiste un testo, quindi le valutazioni che si possono fare sono solo legate alle dichiarazioni che sono state diffuse dalla stampa, che sono state riprese dai media. L'idea di una esternalizzazione della procedura di asilo è balenata nel corso degli ultimi anni, sia perché il tentativo è quello di contrastare con ogni mezzo il movimento di richiesta di asilo da parte dell'Unione Europea, sia perché la cooperazione con paesi, diciamo, terzi, quantomeno nella storia del diritto di asilo, offre i peggiori esempi di violazione dei diritti. Mi riferisco al caso dell'Australia, che ha di fatto affittato, usiamo questa espressione, alcune isole di Papua Nuova Guinea per costruire centri di detenzione per richiedenti asilo, che sono i centri peraltro nei quali è stato trattenuto Behrouz Buchani, scrittore iraniano che ha pubblicato un libro importantissimo che racconta l'esperienza a tutti gli effetti concentrazionaria che ha vissuto su quest'isola. E poi c'è l'esempio della Gran Bretagna e del Ruanda, tentativo di spostare fisicamente le persone in Africa affinché la domanda di asilo venga trattata in quel luogo. L'accordo che viene ipotizzato fra Italia e Albania non è sovrapponibile dal punto di vista giuridico, ma si muove dal punto di vista politico in quella direzione. Ci sono una serie di problemi dal punto di vista strettamente giuridico che sono importantissimi. Il primo riguarda l'effettività del diritto di difesa, la possibilità che le persone oggetto di soccorso in mare vengano di fatto respinte, perché questo materialmente è un respingimento, cioè impedire che una persona raggiunga la costa italiana prima di verificare se si tratta di un richiedente asilo o meno è un'ipotesi espressamente vietata dalla legge italiana, quindi si tratterebbe di un respingimento di fatto illegittimo, preventivo, se vogliamo usare questa espressione. E poi c'è il grandissimo problema della possibilità di applicare le norme contenute nella direttiva dell'Unione Europea a domande che vengono formalmente registrate al di fuori del territorio dell'Unione Europea, secondo uno schema che probabilmente è al di là, direi, dell'azzardo dal punto di vista tecnico. Infatti ieri la Commissione Europea si è premurata di dire che questo accordo deve comunque tenere conto del diritto internazionale, del diritto europeo. Quello che colpisce è che i richiedenti asilo vengono sempre più contenuti, rinchiusi in strutture. Sì, ormai si è imposta questa sorta di versione carceraria del diritto di asilo. Il diritto di asilo è uno dei diritti fondamentali che ha una storia, una dignità importante, importantissima, ha una sua nobiltà, direi, non solo dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, ma soprattutto dal punto di vista storico, sociale. Lo sforzo che si è attuato, che si sta attuando in questi ultimi 20 anni è quello di portarlo ai minimi termini, prima costringendo le persone a procedure estremamente lunghe, a un tasso di burocratizzazione estrema e progressivamente ricorrendo sempre di più allo strumento dell'isolamento e del trattenimento. La scelta di proporre questo tipo di accordo è stata rivendicata ed è stata ricollegata alla volontà di contrastare il traffico di esseri umani. La domanda è sempre la stessa: ma la fede o ignoranza? È evidente che questa forma deteriore, punitiva di gestione delle domande di protezione internazionale non ha nulla a che vedere con il contrasto al traffico di esseri umani, ma si risolve solo in uno strumento di repressione nei confronti delle persone che di quel traffico sono vittime. Vale sempre il fatto che per, come dire, togliere potere ai trafficanti basterebbe aprire dei canali di ingresso regolari, ecco. Guardi, questa è un'ovvietà che non teme alcuna smentita. E di ieri la pubblicazione di un'inchiesta molto interessante del mensile Altra Economia, che dimostra come mediamente 2.000 posti in accoglienza in Italia al mese sono liberi, sono vuoti. Cioè abbiamo richiedenti asilo che dormono per strada, che non riescono ad accedere alle misure di accoglienza, e all'interno del sistema nazionale di accoglienza, il SAI, che dovrebbe ospitare quantomeno chi ottiene una forma di riconoscimento, in media 2.000 posti sono vuoti, quindi non vengono assegnati. E il dato più sconcertante è che il 20% dei posti finanziati, per i quali quindi c'è un budget, c'è una copertura economica, non vengono attivati. Quindi lo strumento dell'accoglienza, che è uno dei cavalli di battaglia di chi in particolare si oppone all'accoglienza delle persone, è uno strumento ampiamente sotto sottovalutato, sottoutilizzato, nonostante ci siano disponibilità e risorse. Purtroppo la scelta di istituire questo trattamento, questa traiettoria così improbabile, giuridicamente azzardata e dal punto di vista politico direi assolutamente esecrabile, va in piena coerenza con la scelta di un governo che fa dell'immigrazione una sorta di strumento, una sorta di leva per ottenere evidentemente i risultati propagandistici.